Santa Emeridio presenta Te la costruisco io, la web radio. Una trasmissione ideata e condotta da Simone Pizzi, che poi sarei io, che illustra passo passo come mettere in piedi una radio sul web 3.0. Bentornati carissimi amici a questo secondo appuntamento con Te la costruisco io, la web radio, che è questo programma che è nato anche in seguito a una richiesta del buon Morgan, che insomma si è posto la domanda sul come si può costruire una web radio, come viene costruita, qual è il dietro le quinte, tutto il lavoro che viene ovviamente organizzato e tutto ciò che serve per l'allestimento. Ed è proprio di allestimento che parleremo in questo episodio. Però prima faccio una brevissima premessa dicendo che mentre la prima puntata aveva quel suo format un po' particolare da trasmissione live, dato che in quello è nata per sostituire una delle trasmissioni live di Runtime Radio, in questo caso invece rientreremo insomma in un formato un po' più tradizionale da podcast semplice, quindi non ci saranno brani musicali, non ci saranno cose particolari, a meno che ovviamente non c'è l'esigenza di suddividere dei compartimenti e dei capitoli all'interno delle varie puntate. Detto questo, intanto tenete sempre presente che comunque questa è una trasmissione di Runtime Radio. Runtime Radio è un network di podcast che trovate su Spreaker, all'interno del quale troverete una serie di podcast sulla base tecnologica, ma non solo, quindi una radio prevalentemente geek, ma che realizza e produce podcast anche di altro genere. All'interno di questo tipo di discorso c'è anche la web radio che trovate su runtimeradio.it, dove ovviamente tra i vari pulsanti, tra le varie scelte che ci sono nel menu in alto, c'è anche io, quindi Runtime Anche Io è questa nostra iniziativa nella quale praticamente chiediamo a tutti coloro che sostengono il nostro progetto in qualche maniera di fare una donazione, una tantum su PayPal, oppure di fare una donazione ricorrente tramite il nostro Patreon. Con questo vostro contributo ovviamente permettete a tutta la struttura di stare in piedi e di continuare ad esistere, ma anche quando necessario di investire in strumenti, attrezzature e magari anche software che possono essere necessari per questo tipo di attività che noi facciamo. In questo primo episodio, anzi questo secondo episodio, però diciamo il primo episodio dove si va un po' nel vivo, parleremo di costruzione dello studio della web radio, sia esso in spazi estremamente limitati che insomma anche per coloro che hanno magari degli spazi molto più grandi. L'importante è sapere che c'è uno spazio che sia dedicabile a questo tipo di attività, perché una cosa fondamentale, questa l'ho detta anche nel primissimo episodio, si legge molto sul web il fatto che c'è la possibilità di costruire praticamente delle web radio e insomma di andare on air con pochissimo sforzo e pochissima spesa. Questo è virtualmente vero da un certo punto di vista, ma chiaramente non ha veramente senso seguire determinati suggerimenti se comunque la nostra intenzione è quella di fare una cosa seria, di fare un lavoro importante da un certo punto di vista, e soprattutto anche se lo si vuole fare bene, indipendentemente dal fatto che lo si faccia per passione o se ci siano poi delle ambizioni professionali. L'aspetto dal punto di vista tecnico e tecnologico è un aspetto importante. Chiaramente noi diciamo facciamo questo discorso del come costruire una web radio su quello che è il nostro target, quindi la nostra esperienza, che è quella di una radio non professionale, che ha investito mezzi in maniera relativa, ma che comunque non possono essere considerati certo dei mezzi da 4 soldi, insomma, con un microfono da 15 euro, per esempio. Questa è una cosa che comunque va tenuta in considerazione. Ed è importante, tra l'altro, sapere che lo spazio che dedicheremo a questa nostra attività sia uno spazio facilmente organizzabile e organizzato in maniera tale che quando poi sarà installata tutta la strumentazione che è necessaria ovviamente per poter fare questo tipo di cose, non ci siano troppi spostamenti, troppi smanettamenti, anche proprio per tenere ordinato un po' lo spazio e soprattutto tenere ordinata tutta la parte della cavetteria, diciamo, che è comunque secondo me la cosa più complicata, la cosa più difficile da gestire da un certo punto di vista, perché chiaramente diciamo che è la parte sia esteticamente più problematica che anche dal punto di vista proprio dell'occupazione dello spazio, perché tenere i fili in giro, soprattutto determinati fili, significa avere meno spazio di manovra sul quale poi poggiare anche altre strumentazioni che possono essere indispensabili e importanti. Quindi, indipendentemente da quello che abbiamo detto nella prima puntata, diciamo, questa puntata è dedicata su come dovrebbe essere allestito uno studio per una web radio non professionale, chiaramente, sempre parliamo di questo tipo di discorso, perché poi magari se mi ricordo a fine puntata vi faccio anche l'accenno di come invece in realtà dovrebbe essere una cosa, dovrebbe essere costruita uno studio radiofonico, diciamo, se ci fosse l'intenzione di fare un lavoro più professionale o comunque più avanzato da un certo punto di vista. Quindi noi parliamo praticamente di una web radio che è in grado di funzionare avendo tutto l'apparato in una sola locazione e senza tenere in considerazione il fatto che ci siano più locali dove poter distribuire ovviamente l'attrezzatura, e questa è una cosa abbastanza importante. Quindi parliamo comunque di una web radio, come abbiamo detto, non professionale, ma allo stesso tempo che tenga in considerazione il fatto che la qualità possa emergere comunque in qualche maniera, perché io penso che la cosa importante non è la qualità in senso assoluto a prescindere da tutto, ma penso che avere comunque una qualità nel lavoro che si porta e che si esporta anche probabilmente dà anche maggiore soddisfazione, no? E avere quel sound like proprio radiofonico probabilmente diciamo che fa riconoscere anche a coloro che ci ascoltano l'impegno e ci diciamo rende più istituzionalizzati da quel punto di vista. La gente ti riconosce come una radio, perché sai di radio, suoni di radio, e questa è una cosa che non va mai sottovalutata. Quindi, dopo aver fatto la prima osservazione sul fattore strettamente economico, ossia sì, potete anche fare le vostre prime prove utilizzando delle attrezzature tra virgolette di fortuna, però poi quando inizierete ad allestire uno studio perché avete capito che siete in grado di poterlo fare, che avete la tecnologia la tecnologia anche dal punto di vista dello streaming necessaria per poterlo fare, e che è una cosa che insomma è proprio nella vostra mission, poi ovviamente dovrete cercare di concepire lo spazio in una maniera totalmente diversa rispetto a quello che lo spazio e la tecnologia, ovviamente in maniera totalmente diversa a quella che avete in mente. Allora, gli elementi fondamentali che analizzeremo uno a uno, anche se in maniera blanda in questo episodio, e poi in ogni episodio analizzeremo molto più accuratamente. Quindi adesso facciamo un elenco, diciamo, ne parliamo un pochino, però poi dopo sulle puntate successive per ognuno di questi punti ci sarà un episodio, perché è importante cercare di capire alcuni aspetti e cercare anche di capire quali possono essere e quali dovrebbero essere le scelte che possiamo o dobbiamo fare. Chiaramente, ovviamente il punto, diciamo, nevralgico di uno studio, di una web radio, è il mixer. Il mixer è un punto fondamentale, anche se questo tipo di discorso può essere fatto in virtuale utilizzando il computer, però questo è un capitolo che proprio sarà completamente a parte all'interno della puntata nel quale parleremo proprio del mixer. Quindi noi faremo una puntata, la prossima puntata sarà dedicata al mixer, ma poi la parte finale di quella puntata sarà dedicata anche alla virtualizzazione di un mixer, quindi alla possibilità di costruire uno strumento che sia in grado di indirizzare dei canali audio in maniera separata su un PC Windows, che è una cosa abbastanza importante. Poi parleremo ovviamente anche del Mac, perché Mac e Windows gestiscono l'audio veramente in un modo totalmente diverso, e quello di Windows è molto più problematico da un certo punto di vista, però poi insomma ci sono gli strumenti per poter risolvere dei problemi, e qui noi abbiamo studiato tanto, ci siamo sbattuti tanto negli anni per riuscire a capire determinate cose. Quindi il mixer è l'elemento nevralgico, perché è il punto nel quale convogliano tutti gli elementi che sono necessari per la produzione del contenuto, quindi dalla voce alla musica, al sottofondo, agli effetti sonori, alle connessioni, alle telefonate, a qualsiasi cosa possa essere indispensabile per la vostra web radio e o per la vostra particolare trasmissione nello specifico, ovviamente convogliano tutti nel mixer. Successivamente al mixer ci sarebbero tutta un'altra serie di strumenti che una radio più professionale utilizzerebbe, quindi un limiter, un compressore, un equalizzatore, che di solito sono strumenti separati, no? Sono dei processori audio separati messi a colonna che poi ovviamente processano, livellano e abbelliscono anche l'audio che noi facciamo. Quindi quello che va tenuto in considerazione è che non avendo lo spazio né comunque magari le risorse economiche per poter fare un certo tipo di investimento, la cosa fondamentale è dedicarsi a dei mixer che siano in grado di, diciamo così, compiere queste operazioni in maniera integrata, nella maniera quanto più professionale possibile. Ci sono dei mixer analogico digitali, siano dei compressori, gli equalizzatori, che però mancano magari della parte master, dove sia necessario ovviamente fare una masterizzazione, un livellamento e ovviamente un'equalizzazione, compreso un limiting. Il limiter ovviamente, come sapete, è quel sistema che impedisce al suono di andare mai oltre una determinata soglia, così come il compressore è quel sistema che controlla che il suono sia all'interno di un determinato range, quindi mai troppo basso, mai troppo alto. E ecco, questi sono elementi che all'interno di un mixer ci devono stare. Ci sono diversi mixer analogico digitali, quelli base di Behringer, che possono già fare, tra virgolette, al caso nostro, anche se non sono gli strumenti ideali. C'è il nuovo prodotto di Rode, il Procaster Pro, che è invece uno strumento che è già predisposto per fare un certo tipo di lavori, con dei processori audio interni anche di grande qualità. Ma poi ci sono anche dei, anche se è uno strumento dedicato più al podcasting live, ma poi lo vediamo, appunto ne parleremo nella prossima puntata. E poi ci sono anche dei mixer proprio specifici per il broadcast, anche per il broadcast diciamo con una potenzialità economica inferiore, ma che sono comunque degli strumenti molto potenti e che riescono, integrando determinate situazioni, determinati strumenti, a funzionare veramente molto molto molto bene. E chiaramente stiamo parlando di cose che superano noi abbiamo fatto un piccolo range qui in questi tre step. Poi ci sono tantissime altre soluzioni, ma noi penso che affronteremo, diciamo, tematicamente questi, quindi cose che possono partire dai 200 euro ai 500 fino ai 1000-1500 euro. Poi chiaramente ci sono degli strumenti broadcast più avanzati che possono anche arrivare a costare diverse migliaia di euro, ma non è questo insomma il canale nel quale discuteremo di questo. Come abbiamo detto, insomma, non è nelle nostre corde. Dobbiamo inoltre aggiungere anche una cosa molto importante relativa ai mixer, che i mixer fanno tutta una serie di operazioni che richiedono, diciamo, una competenza dal punto di vista tecnico, perché comunque equalizzare, sistemare la compressione, gli exciter, tutto quello che pompa comunque il suono richiede comunque un po' di competenza. Quindi avere degli strumenti, soprattutto quando stiamo parlando di un lavoro non professionale, avere degli strumenti che bypassano determinati procedimenti e ti danno, diciamo, un indirizzo da un certo punto di vista, sicuramente sono importanti, perché ad esempio proprio il Rodecaster, insomma, di Rode, il mixer, insomma, pensato per questo tipo di cose, il tipo di suono e di qualità che esce fuori da questo tipo di prodotto è veramente di livello quasi radiofonico, ma chiaramente si basa su un lavoro già predefinito, anche se poi dopo, se sei in grado di conoscere quelli che sono le operazioni da fare, ci puoi tranquillamente mettere le mani sopra e fare poi dopo successivamente un lavoro di miglioramento, di costruzione di quello che chiaramente è il tipo di sound che vuoi tirare fuori. Però ecco, insomma, la cosa importante da capire è che più si sale con la qualità degli strumenti, più si richiede anche che ci sia una competenza da un punto di vista del sound. E quindi ovviamente sono strumenti dedicati a chi ha anche un regista all'interno magari della piccola emittente radiofonica. Quindi noi resteremo sempre su quegli strumenti che sono pensati per il piccolo broadcast, anche semiprofessionale, ma che comunque possa essere gestito anche soltanto da una persona sola, perché il mixer ha questa prerogativa, il fatto che tu puoi gestire tutti i livelli, tutte le situazioni, delle cose che entrano e che escono, sì, però ovviamente non puoi poter o dover gestire tutte quante le problematiche che devono essere, diciamo, gestite dallo strumento in sé. Infatti uno dei grandissimi problemi che si hanno quando si utilizza un mixer analogico o un mixer analogico digitale è il discorso delle telefonate o delle connessioni esterne, perché praticamente l'input e l'output della telefonata va gestito con dei bypass all'interno dei mixer che insomma a volte possono essere anche rognosi, mentre che avere uno strumento che è già predisposto e ti dice quel canale è dedicato a quel tipo di funzione, questo è un grandissimo aiuto, appunto, come dicevamo, quando si parla di una radio che non ha a disposizione dei tecnici che possano poi ovviamente ovviare a quelli che possono essere determinati problemi. Poi chiaramente sono anche dei problemi ugualmente, che però in qualche maniera devi trovare il modo di risolvere, magari usando anche un po' la creatività. Però ecco, questo, insomma, il mixer è lo strumento indispensabile da un certo punto di vista, perché è il fulcro di quello che è il lavoro della web radio. Passiamo a quello che è lo strumento successivo di fondamentale importanza, ma sono tutti ovviamente di fondamentale importanza, però diciamo che ci sono delle cose che sono proprio, come posso dire, le basi, diciamo, insomma, proprio il cuore e i polmoni della web radio, e il secondo elemento è il microfono, barra i microfoni, chiaramente, se avete poi l'opportunità di avere uno spazio dove poter allestire una postazione, dove ci possano essere anche altri speaker insieme a voi, fare una conduzione in coppia o avere anche degli ospiti in studio, diciamo che avere più microfoni è chiaramente una situazione ottimale. Anche qui io consiglio di spendere, la cifra di ingresso per un microfono è i 60-70 euro. Ci sono dei microfoni anche della Neuer, ce l'abbiamo anche noi a disposizione, dei microfoni da 20-30 euro a condensatori, che fanno comunque il loro lavoro e che in casi di emergenza o quando c'è comunque quella persona in più possono sempre essere assolutamente utili e importanti, ma comunque se si vuole fare un lavoro fatto in una determinata maniera che riesca a gestire determinate dinamiche della voce, la profondità del suono e via dicendo. Comunque dovete spendere almeno dai 60-70 euro in su almeno il microfono principale, ma io consiglio di fare questa cosa con tutti i microfoni. Un suggerimento che io vi do, e questo è diciamo un suggerimento mio personale dato dalla mia esperienza, e qui molti potrebbero magari obiettare rispetto a questa cosa, è quello di scegliere un tipo di microfono dinamico piuttosto che un tipo di microfono a condensatore. Vado a spiegare un po' la questione. Di norma nelle stazioni, negli studi radiofonici si usano non è così assoluto, dei microfoni a condensatore, che sono quelli che di solito stanno in piedi, non so se avete visto, che vengono tenuti dall'alto, che sono dei microfoni che hanno una presa più larga e che spesso e volentieri sono utili perché riescono a catturare il suono a cuore, cioè nel senso con prendendo anche quello che è leggermente intorno, diciamo, al microfono stesso. Spesso e volentieri questi microfoni vengono utilizzati dal singolo speaker come anche da più speaker magari contemporaneamente, o magari più ospiti. Può essere utile soprattutto se uno magari fa una suonata live all'interno dello studio, magari con una chitarra, può essere utile perché si può stare, anche se ben equalizzato, ben lavorato, ben settato, ben eliminate ovviamente tutti quelli che sono i rumori, puoi stare anche a una determinata distanza, anche se chiaramente sempre mantenendo comunque un rapporto di distanza, insomma, non eccessiva con il microfono stesso, appunto. Puoi stare, insomma, comunque a un minimo di distanza maggiore rispetto ad altri tipi di microfono. L'inconveniente di questo tipo di microfoni è che se non si ha un ambiente particolarmente insonorizzato, o non si ha a disposizione uno di questi nuovi mixer di cui parlavamo anche prima, che hanno una capacità di bypass del suono, quindi di denoising in tempo reale dell'ambiente, diciamo che si rischia di acchiappare molto. Ma c'è addirittura, e questo vi capiterà di sentirlo anche nelle radio professionali, questa nuova abitudine, siccome che da un po' di tempo si usano moltissimo i computer all'interno delle postazioni degli speaker, quindi ogni speaker di solito ha un proprio computer, ad esempio nelle radio professionali si sentono magari gli scricchietti delle sedie, si sentono i click del mouse, le digitazioni sulla tastiera. Sono dei microfoni che tendono a raccogliere un po' più quello che è l'ambiente intorno allo speaker stesso, quindi diciamo che bisognerebbe avere una condizione d'utilizzo particolarmente vantaggiosa, o avere appunto degli strumenti, e oggi grazie a Dio rispetto al passato ci sono degli strumenti appunto che fanno un denoising in tempo reale veramente di alto livello, e questo insomma non è così scontato, perché anche gli strumenti più avanzati fino a un po' di tempo fa in tempo reale questo tipo di lavoro non lo facevano, e non parlo di noise gate, ossia praticamente dell'annullamento di tutti i suoni al di sotto di una determinata frequenza, io parlo proprio di denoising, cioè del riconoscimento del suono ambientale e la cancellazione dello stesso. Quello che riesce fuori ovviamente è la voce, e questo chiaramente avere questo denoising è importante perché permette alle persone di installare, di costruire uno studio radiofonico, web radio, anche laddove non ci sono le condizioni di insonorizzazione migliori possibili che insomma invece dovrebbero esserci per fare una radio professionale. Quindi ecco, diciamo, molti utilizzano questi microfoni a condensatore, ma io in generale per esperienza noi preferiamo utilizzare dei microfoni dinamici perlomeno per i due o tre speaker principali, e poi avere anche dei microfoni a condensatore da utilizzare ovviamente per le aggiunte, per le partecipazioni extra che magari sono in due, e quindi gliene metti uno lì, insomma, e cerchi poi ovviamente di lavorarci. Il microfono dinamico, che poi è praticamente al di là di alcuni microfoni che sono progettati specificatamente ovviamente per lo speaking radiofonico, come alcuni che poi vi citerò ovviamente nella non prossima ma nella prossima ancora puntata, perché parleremo di microfoni, entreremo proprio nel dettaglio e parleremo anche di modelli che noi poi ovviamente suggeriamo il perché. Diciamo, il microfono dinamico ricorda è anche il microfono a gelato, quello tipico che si utilizza nel canto. Si chiamano dinamici perché c'è l'opportunità per chi canta ovviamente di avvicinarsi o distanziarsi e giocare ovviamente con la dinamica della voce. Chiaramente noi per esempio ne usiamo uno in particolare, che è lo Shure, che è uno degli Shure che si utilizzano proprio sui palchi per cantare, ma più che il microfono dinamico di per sé, quello che intendevo dire è comunque l'utilizzo di un microfono direzionale, cioè un microfono proprio specifico per la tua bocca, vicino alla tua bocca, che sia in grado di catturare bene la pienezza della tua voce e ovviamente cercare di escludere tutto quello che è il contorno, diciamo così, quindi tutti i suoni che sono al di fuori insomma del suo raggio d'azione. E questa è una cosa abbastanza importante, appunto per il motivo che dicevamo prima, ossia per il fatto di non poter garantire sempre di aver costruito uno studio magari a portata di suoni, piuttosto che ovviamente essere all'interno di una realtà totalmente sonorizzata. I microfoni sono assolutamente importanti. Se si fa una radio, e spesso e volentieri nella radio si parla, perché comunque ci saranno degli show, al di là di noi che siamo una talk radio nello specifico, quindi questa cosa assume poi un suo valore ancora maggiore da un certo punto di vista. Se si è ovviamente una radio dove si parla all'interno delle trasmissioni, quindi le trasmissioni musicali, il microfono è un elemento importante, non semplicemente perché il mezzo tramite il quale si parla, ma perché la sua qualità aiuta al miglioramento, diciamo, della qualità generale del modo in cui viene trasmessa la vostra voce, che passando ovviamente poi per i vari processori audio avrà comunque una maggiore pienezza, una maggiore ricchezza, e ovviamente il modo in cui il compressore modulerà la voce, gli alti, i bassi e ovviamente il compressore, il lavoro che fa, chiaramente ne guadagnerà, sarà sempre maggiore insomma l'effetto finale, la qualità del suono, insomma. Questa è una cosa assolutamente importante. Quindi sì, è vero, ci sono molti microfoni economici, sì è vero che alcune tecnologie vendute da certe marche particolarmente cinesi riescono a costare poco pur dando abbastanza, ma a volte quell'abbastanza non è sufficiente per poter fare ovviamente un lavoro di qualità, soprattutto se parliamo del primo speaker, dello speaker principale, che è chiaramente, o dello speaker principale o degli speaker principali, che ovviamente sono fondamentali insomma per la radio, perché chiaramente sono quelli che introducono l'ascoltatore all'interno di quello che è il sound ovviamente della radio, come dicevamo prima. Altro elemento è il computer principale. Noi possiamo distinguere tra computer principale e strumento secondario, però al discorso del secondario ci arriviamo. Lo strumento principale, un computer che sia in grado di fare sia lo streaming che la regia, quindi che sia da supporto al mixer, facendo entrare diciamo nel mixer alcuni determinati elementi, ma soprattutto prendendo dal mixer tutto ciò che il mixer convoglia, in modo che ci sia la possibilità di realizzare praticamente uno streaming verso l'esterno con tutti quelli che sono i contenuti. Poi in realtà quando parleremo appunto del PC e del vari software anche di regia e di streaming e via dicendo, vi renderete conto che in realtà il computer c'ha proprio una funzione anche di regia, il computer principale. utilizzando chiaramente il mixer, perché potrebbe sembrare un po' strano in che modo poi una cosa che dal computer va verso il mixer, poi il mixer comunque ritorna al computer per lo streaming, ma vedrete che le cose sono molto meno complicate di quanto possa sembrare. Però è comunque fondamentale avere un computer che sia esclusivamente dedicato alla regia, allo streaming in maniera particolare, ed eventualmente a quello che può essere il lavoro di diciamo di editing dei vari elementi, o a volte anche di registrazione, perché se è vero che ci sono alcuni mixer, particolarmente quelli digitali, che sono in grado di registrare determinati segmenti magari quando si va live con una specifica trasmissione, è anche vero che maggiori sono le fonti di registrazione e maggiore è la sicurezza, la messa in sicurezza anche di backup audio, di magari documenti audio, appunto registrazioni di trasmissioni live proprio, che magari uno non vuole assolutamente perdere in nessun modo, file che poi vengono ripuliti magari da determinati elementi, ad esempio se c'è musica e magari questo file deve essere inserito in podcast, una riequalizzazione, un rilivellamento se ci sono stati dei problemi dal punto di vista dell'audio, una rimasterizzazione, comunque anche una codifica in MP3 per essere appunto poi distribuito, insomma la registrazione degli elementi audio è assolutamente una cosa importante. Quindi se avete l'opportunità, utilizzate il computer con il quale fate streaming, e di solito è proprio il software di streaming che vi permette di registrare, e decidete voi in che fonte, in che modo, a che qualità e con quale file, con quale modalità di file, e quindi fare streaming, fare questa registrazione, fare regia e, quando necessario, fare anche post-produzione. Per post-produzione, a parte quello che abbiamo testé or detto, ci può anche stare registrare degli inserti, registrare del voice tracking magari per la parte in cui non siete in onda, ma magari la radio trasmette alcuni pezzi particolari, dei jingle di segmento che possono suddividere i vari momenti della giornata, un jingle magari del brano della settimana o il brano del giorno, quello che volete, o addirittura dei radio ID, ossia praticamente le voci di tutti quanti gli speaker che dicono anch'io ascolto Runtime Radio, oppure ciao sono Simone di Runtime Radio, o sono Franco l'ascoltatore dalle Marche che ascolta Runtime Radio. E tutti questi elementi chiaramente vengono importati all'interno del sistema, ma prima ancora vengono editati, perché chiaramente questi file spesso grezzi vengono comunque ripuliti, riequalizzati, compressi e poi inseriti nel meccanismo, e poi entreranno ovviamente nella rotazione, dove poi ulteriormente ci saranno altri sound processor che faranno insomma il loro dovere, quindi altra equalizzazione, altra compressione, perché comunque dovete capire, poi magari ne parleremo, in che maniera viene trattato l'audio in una web radio sia piccola che grande, ma soprattutto anche come fare quel sound like, diciamo, come dico io, anche nella realizzazione di un podcast, perché ogni canale ha il suo processore audio, e in più tutti i canali che sono già stati processati sono ulteriormente processati nel canale master, quindi insomma c'è tutto un certo tipo di discorso. Quindi comunque il computer principale è un computer che deve avere solo ed esclusivamente la funzione di streaming, editing quando necessario, registrazione e regia. Per regia si intende anche comunque la gestione ovviamente della schedulizzazione, se c'è un brano da far partire, l'opportunità di mandare anche tramite altri monitor a persone che sono all'interno dello studio, l'opportunità di vedere magari il brano che viene lanciato, lo spot, quando, i secondi che mancano prima di poter attaccare con la voce e via dicendo. Per avere un computer principale adatto a fare questo non serve un hardware particolarmente performante, nel senso che è necessario avere un buon computer che sia pulito e che sia dedicato esclusivamente a questo, quindi senza troppi ciafronzoli installati, con un buon SSD all'interno nel quale viene inserito tutto quanto il database del materiale, gli assets audio e tutti i contenuti che fanno parte della radio, ma il processore non necessita di un particolare intervento dal punto di vista, insomma, della necessità di calcolo, insomma, particolarmente skillati, perché l'audio, diciamo, è molto più leggero da lavorare rispetto al video, ma questo è abbastanza ovvio. Quindi diciamo che anche con computer inferiori all'i3, diciamo, con processore Intel i3 già si può lavorare tranquillamente. Ma quello che vi consiglio è, se avete comunque un computer che possa essere un po' muletto, diciamo, a questo punto di vista, perché preferibilmente, anche se voi non trasmettete 24 ore su 24, deve essere un computer che può restare acceso per ore di lavoro senza colpo ferire, senza far partire particolarmente delle ventole o via dicendo. Quindi un computer che sia appunto pulito, abbia un SSD abbastanza capiente e performante, un processore e una RAM relativi, perché appunto, come abbiamo detto, non è assolutamente necessario. Quindi un piccolo computer anche economico che possa fare questo tipo di lavoro senza nessun problema da questo punto di vista. Poi chiaramente tutti quelli che sono gli add-on, ma questo vale anche per i microfoni, poi mi sono scordato perché c'è tutta la cavetteria, ma poi ne parleremo appunto nelle puntate quelle specifiche dove ogni singolo argomento verrà trattato singolarmente. C'è anche un discorso di monitor o numero di monitor che noi vogliamo inserire all'interno dello studio, in modo che comunque anche gli altri possano usufruire di quelli che sono i dati fondamentali dell'elemento di regia, perché chiaramente la regia in quel momento è fondamentale per far capire anche al tuo interlocutore, soprattutto se è un co-conduttore, quando bisogna finire, smettere di parlare, quanti secondi ci sono all'attacco della cosa successiva, o quando poi alla fine di un brano si può ricominciare a parlare perché magari inizia l'outro e via dicendo. Noi questo è un discorso che facciamo relativamente, andiamo molto più a braccio, ma quando abbiamo voglia, ovviamente, vogliamo fare proprio la trasmissione proprio super radiofonica, lo facciamo, perché abbiamo gli strumenti per farlo e forse anche un po' l'esperienza, che è la cosa più importante, perché anche se tu sai che mancano 15 secondi alla fine dell'interruzione del tuo parlato, dove c'è l'intro della canzone, ad esempio, per farvi un esempio, comunque devi essere un po' allenato a sapere che in quei 15 secondi tu comunque li devi riempire, e li devi riempire nel modo più sensato possibile, senza metterti a fare bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla e bla bla bla e parte il brano. Quindi insomma, vabbè, dovete avere un esercizio mentale che sia in grado di farvi condensare un discorso, anche l'annuncio, in quei 15 secondi, che può essere anche annunciare il brano dilatando ovviamente magari l'annuncio stesso, insomma, no? Quindi, però mantenendo sempre un certo tipo di ritmo e attenzione. Quindi vabbè, il primo computer, diciamo, è un computer che ha queste funzioni qua. Sono funzioni assolutamente fondamentali, chiaramente, però diciamo che non necessitano, come vi ho detto, di un hardware particolare, e questo è forse una parte sulla quale si può anche risparmiare, grazie al cielo, perché se durante tutto quello che abbiamo detto fino a qui sì, è vero, si sente dire in giro, guardate che si può risparmiare perché come fare web radio da zero, è vero fino a un certo punto. In questo caso invece, fortunatamente, l'hardware necessario per gestire l'audio non è un hardware importante. Una cosa che invece io aggiungo è relativa agli strumenti e dispositivi secondari. Una volta si collegavano praticamente al mixer e a questo banco regia, diciamo così, dei giradischi o dei lettori CD o comunque di qualsiasi tipo di dispositivo che era in grado di mandare in esecuzione suoni e musica, a volte dei pad effetti oppure delle tastiere con le quali si facevano delle sintetizzazioni. Insomma, negli anni è cambiato molto il cosa si collegava a un banco regia. Oggi si può utilizzare un piccolo portatile, anche, sapete, quei netbook proprio specifici per la navigazione su internet, diciamo così, come il computer secondario, ossia avere un piccolo computer che vi permetta di fare una connessione Skype quindi magari poter gestire un collegamento con una terza persona esterna allo studio, e vi possa magari permettere di inviare suoni da altre fonti, che possono essere magari un CD che avete a portata di mano, e che magari quel contenuto ce l'avete soltanto lì, o addirittura utilizzare YouTube, come viene spesso utilizzato in radio, la possibilità comunque di far sentire contributi o situazioni da YouTube, magari anche se si sta facendo un discorso dal punto di vista strettamente giornalistico, magari far sentire l'intervista a Tizio e Caio, magari, che si è trovata su YouTube. In generale, diciamo che per fare questo tipo di supporto, quindi questo dispositivo secondario, che io considero secondario rispetto al computer principale, può essere appunto un netbook, un piccolo computer, un computer veramente poco performante, poco economico, poco costoso, cioè, volevo dire, scusate, ma può anche essere un tablet anche, insomma, di relativa qualità, diciamo, da questo punto di vista, chiaramente senza andare poi a prendere cose che si incartano, si incastrano e vi si impalano proprio nel momento del bisogno. Noi per esempio, oltre al computer principale e via dicendo, utilizziamo un tablet, veramente ne usiamo addirittura due. Però diciamo che questi tablet diventano quasi una sorta di regia ausiliaria, proprio perché in certi casi ti permettono di far partire determinati asset nel momento giusto, in altri casi invece appunto ti permettono di fare dei collegamenti esterni, a volte anche particolarmente importanti. Poi chiaramente il tipo di software che si utilizzerà per fare le connessioni, anche questo sarà un tema, insomma, di discussione, perché pure qui di elementi ce ne sono tanti e di analisi da fare per fare una scelta o per aiutarvi a fare una scelta, insomma, ce ne sono diversi. Comunque il computer principale, l'abbiamo detto, il dispositivo secondario è un dispositivo fondamentale che vi mette nella possibilità appunto di far entrare dell'audio ausiliario per qualsiasi altro tipo di situazione, qualsiasi altro tipo di fonte. Vedete che già con un computer e un piccolo computer oppure un tablet noi abbiamo già eliminato tutta una serie di fonti, come lettori CD, cose particolarmente ingombranti magari che dovevano essere a portata di mano all'interno del tavolo di regia. Un capitolo veramente importante da tenere in considerazione, che affronteremo sia quando parleremo di mixer che successivamente, ma prevalentemente ne parleremo anche quando parleremo di mixer, perché ci sono dei mixer che sono più specifici e dei mixer invece nei quali bisogna renderli specifici, è la presenza di un telefono fisso o di un telefono cellulare. Se si vuole essere una radio che vuole comunque interagire in maniera più universale, quindi senza dover utilizzare tutti quegli strumenti che si utilizzano solitamente, che possono essere appunto Skype, Zoom o addirittura CleanFeed o tanti altri strumenti che vengono utilizzati, la presenza di un telefono fisso o cellulare, addirittura la presenza di un numero telefonico, permette, insomma, alle persone di poter interagire all'interno di quello che è il discorso della radio, magari qualora ci siano delle trasmissioni o dei talk show che richiedano anche l'intervento di qualcuno, ma qualora anche voi vogliate intervistare una persona che non è nelle condizioni di poter partecipare utilizzando strumenti appunto come strumenti di teleconferenza, ma è in grado semplicemente di rispondermi tramite un cellulare, un telefono fisso, e quindi un'intervista da telefono a telefono, e questi sono, insomma, delle cose assolutamente da tenere in considerazione. Quindi nella vostra strumentazione, nel vostro mix, ci deve essere la possibilità, o dovete metterlo nella possibilità di poter utilizzare anche questo tipo di strumenti, perché saranno sicuramente importanti e vi permetteranno alla fine di appunto di interagire in maniera più universale, meno limitata rispetto a quelli che sono i canali che utilizziamo appunto con i programmi di conferenza. Un'altra cosa invece interessante, che può essere interessante da tenere in considerazione, perché a volte sono dei piccoli strumenti che possono essere appoggiati accanto al mixer o addirittura sopra il mixer o comunque insomma tra mixer e tastiera o dove volete, sono i famosi pad per i suoni, oppure avere magari anche un piccolo dispositivo per gli effetti, che può essere comunque interessante. A volte molti mixer integrano questo tipo di soluzioni, o i software di regia contemplano già questo tipo di soluzioni, ma qualora non usiate determinati software o insomma il fatto di avere tante possibilità anche di scelta su come utilizzare i propri strumenti, perché magari c'è qualcuno che preferisce la superficie fisica piuttosto che magari la gestione software, allora ci sono questi pad all'interno dei quali possono essere caricati dei suoni e che possono essere utilizzati sia per fare delle gag, delle situazioni, oppure semplicemente proprio per lanciare dei jingle quando si parla durante la trasmissione, se si lancia ad esempio una rubrica specifica all'interno della trasmissione che si sta facendo e mentre si parla si possono premere questi pulsanti che faranno partire ovviamente i jingle che voi avrete naturalmente già costruito, editato, esportato e chiaramente caricato all'interno di questi dispositivi. Ecco, questi sono dei dispositivi che possono essere veramente utili. Ribadisco, ci sono tantissime soluzioni per questo. Ovviamente oggi qualsiasi cosa indirizzata al broadcast ne tiene in considerazione e sicuramente troverete voi quello che può essere chiaramente la vostra soluzione, quello che preferite, se una superficie fisica, una superficie touch o una superficie addirittura direttamente software, direttamente da computer. Concludo questo episodio con quello che abbiamo già detto prima. Ok, tutta la tecnologia oggi ci permette di bypassare tutta una serie di strumentazioni che una volta erano di uso comune all'interno di una radio, una piccola radio, però io suggerisco sempre, se si ha l'opportunità e ci sia lo spazio, per tante ragioni, di utilizzare tutte le fonti audio possibili e immaginabili, che possano essere CD, DVD, vinile o altre fonti di altro genere, in particolare per vinile, perché magari a volte c'è la voglia di fare un programma magari di sera, di notte, dove si vuol far suonare dei dischi con quell'atmosfera tipica del vinile, che magari non tutti gli ascoltatori percepiscono, ma che comunque magari anche al DJ stesso danno quel gusto in più che poi porterà all'interno della trasmissione e trasmetterà magari con la sua enfasi, con la sua emozione, ovviamente anche alle persone che stanno ascoltando. Ma questa è una cosa in più che poi alla fine capirete quando avrete preso dimestichezza, diciamo, con quello che è lo studio che avrete costruito. Piano piano lo espanderete o lo modificherete a seconda di quelle che sono le vostre esigenze, e la vostra esperienza vi aiuterà e vi guiderà nel fare le scelte che vorrete fare, perché solo manipolando, provando, insomma, si riesce a capire in che maniera fare magari certe scelte e come costruire uno studio. L'ottimale sarebbe quello di costruire uno studio, sistemare tutti i cavi, la cavetteria, mettere tutto quanto in ordine e poi restare così per sempre, ma vedrete che la prima volta vi renderete conto che non sarete magari soddisfatti, perché avrete capito meglio come utilizzare determinati strumenti che magari avete pensato di usare in un modo, invece magari quel modo può essere usato da altri strumenti, o comunque ci possono essere altre soluzioni. Quindi vedrete che insomma bisognerà un po' metterci le mani, no? È un po' come la prima volta che vi prendete un computer, installate roba, voi vedete che avete incasinato il sistema, quindi dovrete riformattare per riprovarci da capo. E diciamo che insomma alla fine queste questo schema che io vi ho indicato, secondo me è lo schema principale più utile e più fondamentale, secondo me, nell'utilizzo di una, nella costruzione di una piccola web radio non professionale. Però, come detto sempre, poi alla fine, secondo me, è la direzione che voi darete alla vostra web radio e soprattutto l'esperienza che voi farete utilizzandola che vi permetterà poi di capire meglio come volete, vorreste muovervi o vorrete muovervi, vabbè, come vi muoverete, scusate, però insomma ogni tanto mi impiccio anche io, e neanche ogni tanto, insomma, direi che anche abbastanza spesso. Quindi, ricapitolando, un bel mixer, ragazzi, se predisposto per il broadcast è meglio, dei microfoni, io suggerisco dei microfoni direzionali specifici per ogni singolo speaker, un computer principale, come abbiamo detto, per la regia, l'editing lo streaming, fondamentalmente per lo streaming, un computer secondario o tablet che può servire per le connessioni audio o altre fonti eventuali, un telefono fisso o cellulare, quindi l'opportunità di far entrare poi comunque far entrare e uscire, perché la cosa importante dei telefoni è anche che loro ricevano il feedback, chiaramente, per rendersi conto che cosa sta succedendo durante la trasmissione. Opzionale, ci sono dei pad per gli effetti sonori o addirittura proprio dei processori, dei dispositivi proprio per modificare anche la voce, per fare insomma tutte cose che potreste aggiungere, come no, ed eventuali fonti esterne, come abbiamo detto, CD, DVD, vinili e altre fonti. Detto questo, io penso che con questo voi avrete costruito il vostro studio, e fatta eccezione di tutti quelli che sono un po' gli ammenicoli estetici, quindi luci colorate, LED sulle pareti, LED sulla vostra scrivania, e poi maggiore è lo spazio che voi darete alla vostra scrivania e meglio sarà, più organizzabile lo spazio stesso. Io suggerisco quello che si vede spesso e volentieri in tante radio, ossia quelle scrivanie, diciamo, ovoformi, non proprio quelle quadrate, perché c'è l'opportunità di creare anche un setting circolare che permette anche agli speaker e con gli ospiti di guardarsi più facilmente in faccia, perché purtroppo tante volte quando si è in posizioni disallineate, diciamo così, si tende a guardare verso la persona per parlargli bene dritto negli occhi, e questo magari distoglie la nostra bocca dalla posizione del microfono. Quindi, insomma, quella è proprio una cosa sulla quale dovete mettere mani voi, cioè decidere in che maniera il vostro studio è e deve essere, ma soprattutto quali sono le vostre possibilità, anche non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dello spazio. E detto questo, io vi ringrazio per aver ascoltato questa seconda puntata. Spero che questa modalità di podcast, questo tipo di introduzione al mondo della web radio vi piaccia, perché come vedete, a differenza di tanti video che fanno su YouTube dove in 15 minuti vi devono spiegare tutto, noi qui abbiamo l'opportunità di prendercela veramente comoda, e voi avrete l'opportunità di prendere quello che da questa trasmissione vorrete prendere. Quindi per questa puntata è tutto, vi ricordo di andare su www.rantameradio.it non soltanto per ascoltare la nostra radio, ma anche per andare nel pulsante anche io, dove potrete contribuire al nostro lavoro, perché come sapete Rantime Radio non solo è un grande network di podcast, ma è anche una web radio, e tutta la struttura che ha costruito e che continua a costruire ovviamente ha dei costi che noi sosteniamo per passione. Se le persone che ci seguono vogliono comunque supportarci, chiaramente questo è una cosa che noi possiamo semplicemente che vedere con gioia e contentezza, e ringraziarvi anticipatamente per tutti coloro che contribuiranno, e soprattutto per tutti coloro che hanno già contribuito. Potete farlo una tantum su PayPal, oppure potrete farlo abbonandovi al nostro Patreon di Runtime, che è il modo migliore per sostenere tutte le trasmissioni in maniera totalmente indiscriminata, senza una scelta precisa, in modo che nessuno rimanga mai indietro, che è un po' il presupposto di questa radio. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, e che forse è meglio dire ci sentiamo. avete ascoltato Te la costruisco io, la web radio. Una trasmissione ideata e condotta da Simone Pizzi, che poi sempre sarei io, che illustra passo passo come mettere in piedi una radio sul web 3.0.